di Simone Spezia. In questa decadenza in mezzo a tanta oscurità le speranze non hanno chance se la decadenza. La giunta per le elezioni del Senato riunita in queste ore si decide sul voto palese o segreto per la decadenza di Silvio Berlusconi da senatore. Eletta insiste, separiamo questa vicenda da quella del governo. Nella giornata nazionale del risparmio il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si rivolge alle banche, fate più credito. Il governatore di Banca Italia Visco dice crescita modesta a fine anno e grado elevato di incertezza, sta intervenendo in questi minuti il ministro dell'economia Saccomanni. Si chiudono le indagini sull'Ilva, ci sono 53 indagati, tra loro anche il presidente della regione Puglia, Nicchi Vendola, e un deputato di SEL. Fuga di fumi pericolosi dalla fabbrica, intanto alcuni operai intossicati. Va bene, l'asta dei titoli di Stato italiani. Scende il rendimento dei bot a 5 e 10 anni, sale la domanda, borsa positiva. Primarie del PD, congresso bloccato anche ad Asti dopo le centinaia di tesseramenti di operai edili albanesi. Hanno votato tutti per il candidato renziano. A Genova il processo agli anarchici che spararono all'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare ad Inolfi. Loro confessano, tensione fuori dal tribunale. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Una giornata che apriamo, una trasmissione che apriamo oggi con la politica e con queste ore che sono ore importanti per quanto riguarda il voto per la decadenza di Silvio Berlusconi da senatore, perché la giunta sta decidendo se voto palese o segreto e come sapete tutto questo ha un impatto anche su quello che succede nell'urna. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, sono terminati allora i lavori della giunta, sono terminati i vari interventi, i senatori stanno stilando un verbale, dovrebbero riunirsi di nuovo a breve, verosimilmente il voto dovrebbe arrivare al massimo entro un'ora, se le previsioni fatte finora tuttavia verranno confermate, la decisione di votare con scrutinio palese passerebbe con 7 voti a favore e 6 contrari, Stefano in quanto presidente per prassi non vota. Ago della bilancia Linda Lanzillotta, Scelta Civica, che ha confermato poco fa di aver optato per il voto palese. Quindi ricordando i due schieramenti per il voto segreto, Popolo della Libertà, Lega, Gruppo Autonomia, Libertà e Socialisti, per il voto palese PD, 5 Stelle, Sinistra, Ecologia e Libertà. Ma cosa accadrà comunque dopo la decisione sul tipo di voto? Innanzitutto i tempi per arrivare in aula a Palazzo Madama, è già stata respinta la mozione dei 5 Stelle di fissare il 5 novembre come data. I tempi in realtà potrebbero essere non così immediati in quanto indipendentemente dal voto della Giunta il regolamento prevede che 20 senatori, in questo caso del PDL, possano chiedere comunque il voto segreto presentando un ordine del giorno in difformità con quanto verrà deciso oggi. A quel punto la palla passa al presidente Grasso, che potrà accogliere o respingere la richiesta prevedendo anche un passaggio rapido nella stessa giunta. Tutto questo per dire che dovrebbero passare da oggi non meno di 20 giorni prima dell'arrivo nell'aula del Senato del caso Berlusconi. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, sentiamo un po' di posizioni in campo a questo punto con il nostro Andrea Viali. Andrea, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, allora in attesa di questa decisione della giunta possiamo dire che restano molto aspri i toni dello scontro nella maggioranza, non soltanto sulle modalità del voto che ci sarà in aula. Sappiamo che i falchi del Popolo delle Libertà e lo stesso Berlusconi continuano in maniera, diciamo, più o meno velata a minacciare una crisi se il Senato poi voterà effettivamente la decadenza del Cavaliere, e soprattutto insistono nel chiedere al governo di intervenire per sancire la non retroattività della legge Severino, rendendola quindi, in sostanza chiedono di renderla inapplicabile al caso di Berlusconi. Richieste reiterate nelle ultime ore alle quali stamattina ha risposto così a radio anch'io il premier Enrico Letta, sentiamo le sue parole. 2 ottobre io ho chiesto una fiducia al Parlamento, il Parlamento mi ha dato la fiducia con un largo consenso e in quella richiesta di fiducia il pilastro di quel discorso era l'Italia ha bisogno di ripresa, ha bisogno di un governo e bisogna che ci sia separazione tra le vicende, tra singole vicende giudiziarie e l'azione del governo. Punto. Quindi una presa di posizione molto netta quella del Presidente del Consiglio, convinto evidentemente di avere ancora questi numeri per una fiducia al Senato. Simone. Grazie dunque ad Andrea Viali e sentiamo su questo il punto di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. L'ultimo atto parlamentare che riguarda Berlusconi prima della sua ormai ineluttabile decadenza da senatore coincide con il caos, una specie di muoia Sansone con tutti i filistei. D'altra parte è stato appena rifondato un partito, Forza Italia, proprio per questo, per coprire l'ultima battaglia in difesa del leader. Ma tutto dipende da quanto sono bagnate le polveri da sparo di Berlusconi stesso. Se la sua minaccia di aprire la crisi del governo Letta è un bluff, come fanno capire i cosiddetti moderati del centrodestra, pronti a dare in ogni caso il loro voto all'esecutivo, beh, allora l'uscita dalla scena parlamentare fra poche settimane sarà carica di frustrazione, ma innocua dal punto di vista delle conseguenze. Tutto o quasi lascia presumere che sia così, ma la tensione ancora una volta è alle stelle e lo sarà a lungo, sembra la nostra condanna, mentre gli italiani osservano attoniti quello che accade. E ora veniamo alla giornata nazionale del risparmio, perché sta parlando in questi minuti il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, ma sono intervenuti in giornata anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, sta seguendo i lavori Alessandra Schepisi. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno, giornata del risparmio come volano della ripresa produttiva, il titolo di questa 89esima edizione, ripresa che c'è, conferma il ministro dell'economia Saccomanni, che ha proprio terminato in questo istante di parlare. Nel 2014 ha confermato il PIL sarà a 1,1%, si porterà su livelli ancora superiori nel 2015, confermate anche le previsioni sullo spread a 200 nel 2014 e a 100 nel 2017. Tutto questo però, ha detto, richiede che ci sia una stabilità politica necessaria per sostenere la fiducia dei mercati nella ripresa. E il titolare dell'economia è intervenuto anche sulla legge di stabilità, ci sono state tante critiche, ma sono marginali, e si è detto però pessimista sulla possibilità di concedere sgravi fiscali più ampi, non ci sono soluzioni semplici per reperire le risorse, ha detto. E di ripresa ha parlato anche il governatore di Banca Italia Visco, secondo il quale però l'incertezza resta elevata. Per Visco l'Italia ha debolezze strutturali a lungo trascurate, l'azione di riforme va proseguita con determinazione, anche le banche però, dice Visco, facciano la loro parte, taglino gli stipendi dei vertici, il costo del lavoro. E Visco ha anche lanciato un altro monito, sentiamo. A concorso l'attenuazione delle tensioni finanziarie favorita anche dalle misure eccezionali, prima di liquidità e poi di impegno a intervenire sui mercati per ridurre il rischio dato dall'euro, dell'eurosistema. Il mantenimento dell'equilibrio dei conti pubblici, la prosecuzione dell'azione di riforma a sostegno della crescita, insieme ai progressi nel processo di completamento dell'Unione Europea, potranno migliorare il clima di fiducia e ridurre la percezione dei rischi sugli investimenti nel nostro Paese, permettendo di consolidare la ripresa dell'afflusso di capitali internazionali. Una giornata che si è aperta con il messaggio del capo dello Stato: le banche riaprano i rubinetti del credito, aumentino i prestiti alle imprese, è stato l'appello di Napolitano, ma a difendere le banche il presidente dell'ABI Patuelli, il quale ha messo in guardia contro quella che ha definito l'ingenerosa demonizzazione degli istituti di credito, sui quali spesso viene scaricata la responsabilità della crisi. Ma sentiamo un passaggio del suo intervento. Non bisogna spaventare i risparmiatori con minacce e tantomeno con realizzazioni di imposte patrimoniali eccezionali o ordinarie. Occorre invece rassicurare i risparmiatori italiani fornendo garanzie etiche e fiscali di maggior rispetto per il risparmio destinato ad impieghi produttivi, come l'intermediazione bancaria, gli investimenti azionari e gli immobili. E infine Guzzetti, presidente dell'ACRI, associazione che rappresenta le fondazioni di origine bancaria e le casse di risparmio. Guzzetti è tornato ancora una volta a smentire che tramite le fondazioni si sarebbero introdotti la politica e i partiti nelle banche, salvo, ha detto, l'unico caso di Siena. Da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Allora, abbiamo sentito il governatore della Banca d'Italia, Visco, parlare delle tensioni finanziarie che oggi sembrano allentarsi ancora una volta. Dopo l'asta di ieri dei titoli di Stato a 6 mesi, che è andata bene, oggi forse anche più importanti, l'asta per i titoli a 5 anni, con il tasso che torna sotto il 3% per la prima volta da aprile scorso, attestandosi al 2,89%, con domanda in crescita, e domanda in crescita anche per i BTP a 10 anni. Rendimento al 4,11%, ai minimi d'aprile scorso, rispetto tra l'altro al 4,5% registrato a settembre. Per un commento in diretta abbiamo Moria Longo del Sole 24 Ore. Moria, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, che sono ottimi segnali, da cosa dipendono? Ma dipendono da tantissimi fattori. Sta aumentando la domanda internazionale per non solo i nostri titoli di Stato, ma poi per tutti i titoli di Stato europei. Ci sono flussi in ingresso in Europa molto forti, principalmente dovuti alle attese sulla politica monetaria americana, e questo sta per esempio facendo salire l'euro, che è l'altra faccia della stessa medaglia. Flussi che entrano in Europa in acquisto sui titoli di Stato e sale l'euro. Quindi ci sono flussi internazionali, ma ci sono anche flussi domestici. I dati dimostrano, anche se non sono aggiornatissimi, quelli della Banca Centrale Europea risalgono ad agosto, ma dimostrano che per esempio le banche italiane stanno ancora accumulando molti titoli di Stato italiani, continuano ad acquistarne, e poi c'è anche un altro dato, che anche i risparmiatori stanno tornando a comprare titoli di Stato. Questo è un dato curioso, perché in Italia, nonostante la crisi, ha ripreso ad aumentare il tasso di risparmio, cioè la gente inizia a risparmiare un po' di più. Questo non è dovuto al fatto che ci sono più soldi, purtroppo, ma dovuto al fatto esattamente opposto. Siccome la crisi è ormai entrata proprio fortemente nella vita di tutti, gli italiani, quelli che possono, stanno iniziando a ridurre il più possibile i consumi per mettere da parte un po' di soldi. Ebbene, questi soldi che vengono messi da parte vengono investiti in titoli di Stato. Quindi un po' la domanda estera, un po' la domanda delle banche italiane, un po' questa rinnovata domanda da parte dei risparmiatori sta facendo scendere molto i rendimenti dei BTP. Grazie Moria Longo per questa analisi puntuale e rapida. E adesso passiamo a parlare di Ilva ora. Perché? Perché oggi è stato notificato l'avviso di chiusura dell'inchiesta, ci sono 53 indagati, tra loro anche il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, anche un deputato di SEL. Saluto Domenico Palmiotti per un aggiornamento che ci racconta un po'. Domenico, allora raccontaci un po' che cosa è successo e raccontaci anche di questo incidente del quale abbiamo letto e che abbiamo raccontato nei nostri titoli, secondo il quale ci sarebbero alcuni operai intossicati per una fuga di fumi. Domenico, prego. Allora, sono 53 gli indagati, sono avvisi di conclusione delle indagini che oggi la Procura ha fatto notificare dalla Finanza, a conclusione di un'inchiesta che era cominciata nel 2009. Come hai detto tu da studio, c'è il governatore della Regione Puglia, Nichi Vendola, l'assessore regionale all'ambiente della Puglia, Renzo Nicastro, il sindaco di Taranto, Ezio Stefano, ci sono anche diversi dirigenti regionali di peso, fra cui il capo di gabinetto di Vendola, Davide Pellegrino, il dirigente del settore ambiente della regione, Antonello Antonicelli, poi c'è anche un consigliere regionale della Puglia, Donato Pentassuglia, in più i Riva, Emilio Riva e i due figli, Nicola e Fabio, insieme agli ex direttori dell'Ilva di Taranto, Luigi Capogrosso e Adolfo Buffo. E sono indagate anche delle società, tra queste la stessa Ilva. L'avviso è stato notificato all'attuale commissario Enrico Bombi. L'inchiesta riguarda il disastro ambientale. Il nucleo delle accuse fatte a Riva è appunto quella di aver messo in piedi una rete di pressioni e di contatti tesi ad evitare che l'Ilva venisse penalizzata dal punto di vista delle autorizzazioni ambientali. A Vendola invece è imputata la concussione in concorso con Fabio Riva, perché l'ARPA Puglia aveva suggerito nel 2009, a fronte di emissioni inquinanti pericolose, di ridurre la produzione del siderurgico di Taranto, e Vendola, di fronte a questo invito, aveva mostrato insofferenza e fastidio, sino a paventare la possibilità che i vertici dell'Ilva stessi non venissero rinnovati. Domenico, brevemente invece sull'incidente di questa mattina. L'incidente di questa questa mattina è avvenuto in acciaieria 1, praticamente intossicati 6 operai, dice l'azienda, 15 invece secondo il sindacato di base USB, si è provocato, c'è stato del fumo in quanto della ghisa è venuto a contatto con delle tracce di olio combustibile. In ogni caso non è stato un incidente grave. Grazie Domenico Palmiotti da Taranto per questi aggiornamenti. Ci spostiamo adesso a Genova invece per il processo agli anarchici che spararono, lo ricorderete, al amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, ad Inolfi, alle gambe, lo gambizzarono. Processo nel quale hanno confessato, ma c'è anche stata tensione fuori dal tribunale. Dunque, Andrea Ferro, buongiorno innanzitutto, che cosa succede? Sì, buongiorno Simone. A Genova oggi sembra di essere tornati indietro di 30 e più anni ai tempi dei processi contro le Brigate Rosse. Tribunale blindato, polizia e carabinieri ovunque, addirittura una specie di zona rossa creata attorno al Palazzo di Giustizia. Ma oggi alla sbarra, come dicevi, ci sono due anarchici torinesi, Alfredo Cospito e Nicola Gai, accusati di aver gambizzato il 7 maggio 2012 l'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. E rispetto ai tempi dei processi alle Brigate Rosse, oggi c'è anche chi manifesta solidarietà ai due imputati con una manifestazione pubblica. Circa 200 anarchici provenienti da tutta Italia e qualcuno pure dall'estero stamane si sono riuniti in centro, in corteo hanno raggiunto via Balbi e la facoltà di lettere, dove hanno partecipato ad un'assemblea. Assemblea che è terminata circa tre quarti d'ora fa. Ora gruppetti manifestanti stanno raggiungendo la zona del tribunale. La polizia li controlla a distanza, finora nessun momento di particolare tensione. All'interno dell'aula Cospito e Gai hanno cercato di leggere un comunicato. Succedeva anche ai tempi delle BR, ma sono stati temporaneamente espulsi dall'aula tra le urla di un gruppo di simpatizzanti. Nel comunicato, in sostanza, come dicevi, i due anarchici si sono attribuiti la piena responsabilità dell'attentato e poco fa i PM dell'accusa hanno formulato la richiesta di condanna. 12 anni per Cospito, 10 per Gai. La sentenza potrebbe essere emessa già stasera. Grazie ad Andrea Ferro. Con un po' di ritardo la linea alla viabilità. Ci ritroviamo subito dopo. Avremo un'intervista col ministro della funzione pubblica Giampiero D'Alia, perché ieri è stato approvato il decreto sulla pubblica amministrazione in Senato, insomma con questo casino, scusate l'espressione, della decadenza di Berlusconi e quasi non ce ne siamo accorti, ma ci sono delle norme importanti dentro. Naturalmente parleremo anche di politica tra un attimo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Nella giornata nazionale del risparmio Napolitano si rivolge alle banche e dice loro fate più credito. Il ministro Saccomanni, alle banche italiane non serviranno aiuti di Stato. Il governatore di Banca Italia Visco dice crescita modesta a fine anno e grado elevato di incertezza. La giunta per le elezioni del Senato riunita si deciderà a breve sul voto palese o segreto per la decadenza di Silvio Berlusconi da senatore. Parla intanto Lanzillotta di Scelta Civica che dice un voto segreto non serve. Si chiudono le indagini sull'Ilva, 53 indagati, tra loro anche il presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, fuga di fumi pericolosi dalla fabbrica, intanto alcuni operai intossicati, 6 secondo l'azienda, 15 secondo i sindacati. Va bene l'asta dei titoli di Stato italiani, scende il rendimento dei bot a 5-10 anni, sale la domanda, borsa positiva. E veniamo adesso alle primarie del Partito Democratico per raccontarvi. Ieri abbiamo intervistato Davide Zoggia, il responsabile organizzazione del partito, per questa questione dei tesseramenti gonfiati. Ebbene, andiamo a raccontare uno dei casi specifici, quello di Asti. Il boom di illuminati dal sindaco fiorentino che ha coinvolto i congressi piemontesi non ha escluso quelli della provincia di Asti, con un dato in più. La sera del voto per la scelta del futuro segretario provinciale, al seggio astigiano si sono tesserate 341 persone, 200 di loro di origine albanese o romena. Stessa cosa nei circoli locali di Villafranca e Rocchetta Tanaro. Numeri questi che hanno fatto la differenza nella scelta del candidato, secondo quanto affermano i cuperliani che sostengono la segretaria uscente Francesca Ferraris. Ed è proprio lei a denunciare. Sono coinvolte tutte le imprese edili della provincia che accompagnano a votare i loro dipendenti. Non è che sono albanesi. Quindi questi voti sono andati ad un'unica parte. È una cosa matematica, sono andati da un'unica parte. Io penso più dal gruppo che sostiene il candidato renziano, però la responsabilità del candidato renziano non cambia, perché comunque lui accetta. L'entourage intanto del candidato renziano Giorgio Ferrero tenta una spiegazione. Abbiamo candidato un esponente della comunità albanese, Hasan Bulkari, precisano. Ha chiesto il supporto dei suoi connazionali per essere eletto nell'assemblea provinciale. Loro si sono iscritti e l'hanno votato. Cosa c'è di male? Valentina Innocente, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una scuola ostaggio di studenti teppisti è successo nell'istituto di via Amoretti, nel quartiere milanese di Quarto Giaro. Una persona è stata arrestata per spaccio di droga, 7 minorenni denunciati per atti vandalici, bullismo, intimidazioni agli insegnanti. Sentiamo il dirigente del commissariato di quartiere di Quarto Giaro, Antonio D'Urso, al microfono di Cinzia Caserio. C'erano singoli episodi da parte di singoli ragazzi, non maggiorenni, che finivano col concretizzarsi in reati e sono stati denunciati. Minacce con l'uso di coltelli nei confronti di alcuni professori, anche se velate come minacce, nel senso che parlavano, facevano delle richieste e magari brandivano un coltello a mo' di gioco. Lanci di petardi negli uffici della scuola, interruzioni di pubblico servizio, presenze di soggetti non titolati, ex alunni all'interno della scuola che finivano col atteggiarsi da leader all'interno, possibile prospetto di uno spaccio di droga all'interno del cortile, quindi una serie di situazioni, ragazzini anche che nel scalo ferroviario di Villa Pizzone lanciavano sassi dal cavalcavia ai danni di treni in transito. Saluto il ministro della funzione pubblica Antonio D'Alia, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, salve. La prima domanda che le faccio, in realtà poi arriveremo al decreto sulla pubblica amministrazione che è stato approvato ieri definitivamente, è oggi alla firma del Presidente della Repubblica? Sì. Oggi alla firma del Presidente della Repubblica. Ci arriveremo, ma prima naturalmente le devo fare una domanda politica. E le chiedo anche una risposta molto secca. Regge questo governo? Ma io credo proprio di sì, non vedo la ragione per cui non debba reggere. Insomma, qualche ragione forse c'è, no? Le tensioni con il PDL, tra il PDL e il resto della maggioranza, sono ancora piuttosto energiche. Oggi, tra l'altro, è una giornata decisiva. La sua collega di, non so se è di partito a questo punto, di movimento, perché anche su Scelta Civica c'è qualche problema, Lanzillotta dice andiamo a voto palese. Ma guardi, io parto dal presupposto che la vicenda che interessa la decadenza del presidente Berlusconi sia stata già affrontata dal punto di vista politico, separando la vicenda della decadenza dal futuro del governo. Il senso del voto di fiducia al governo Letta che il Parlamento ha dato con una maggioranza anche un po' più ampia di prima il 2 ottobre scorso. Quindi siete sereni e lavorate sereni, dice lei. Sereno è un termine impegnativo, lavoriamo con determinazione, è chiaro che siamo consapevoli che ci sono discussioni interne ai partiti, per la verità non solo al PDL, pensiamo anche al congresso futuro del Partito Democratico, quindi è chiaro che queste discussioni interne hanno anche delle ripercussioni sul governo, ma io penso che i cittadini italiani abbiano ben chiaro che oggi l'esigenza principale sia quella di governare per uscire dalla crisi in cui ci troviamo, non di litigare. Senza contare voi, ministro, insomma, il suo di partito, che a questo punto sono due partiti oppure no, che questo non ma l'ho guardi, ancora capito. Io sono iscritto all'UDC da sempre. Noi non litighiamo, non abbiamo posto questioni, ci sono questioni personali. La vicenda riguarda il dibattito politico in corso. Il febbraio scorso le ultime elezioni politiche hanno determinato la fine del sistema bipolare per come l'abbiamo conosciuto in 20 anni. Bisogna costruire un nuovo sistema politico che sia efficiente e in condizione di dare risposte ai cittadini. Noi pensiamo che questo debba avvenire costruendo in Italia partiti nuovi che siano ancorati alle famiglie politiche europee, quindi al Partito Popolare Europeo e al Partito Socialista Europeo, e che in Italia si costruisca un vero bipolarismo ancorato ai contenuti e ai progetti di governo e che vada fatto al più presto. La discussione è su questo, non ci sono altro tipo di incomprensioni. Allora, veniamo al decreto sulla pubblica amministrazione. Allora, io ho un paio di domande, ci sono molte cose dentro, tra cui per esempio il taglio della spesa per le consulenze nelle amministrazioni pubbliche non potrà essere superiore all'80% nel 2014, all'80% di quanto sostenuto nel 2013 e del 75% per l'anno successivo. Entro un mese arriverà l'autorità anticorruzione, ci dovrebbe essere il nome, cioè il decreto vara questa autorità anticorruzione, dovrete indicare un nome. Per inciso, ha già un'idea, Ministro? Ma guardi, la norma prevede che l'autorità nazionale anticorruzione sia composta da un presidente e da quattro componenti che abbiano comprovata esperienza nel settore della lotta alla corruzione, non siano persone vicine ai partiti politici, e quindi noi proporremo soluzioni che sono assolutamente in sintonia con lo spirito e la lettera della legge. Magistrati, suppongo. Non solo, esperti di anticorruzione non sono solo i magistrati, ci sono anche economisti, ci sono persone che lavorano anche nel mondo delle forze dell'ordine, ci sono tante professionalità che possono e dovranno essere utilizzate. C'è una domanda che mi interessa, perché il cuore, se vogliamo, del decreto è la questione dei concorsi, no? Questo articolo 4 del decreto, che insomma si stabiliscono, naturalmente arrivano dei nuovi concorsi per la pubblica amministrazione, e al 50% saranno riservati ai precari. Su questo si sono addensate un po' di critiche, D'Alia. Dicono, insomma, qua questa pubblica amministrazione non riesce ad uscire dalla questione del premiare esclusivamente il merito. Ma guardi, il decreto va proprio nella direzione che dice lei, di premiare il merito. Bisogna però anche fare conti con la realtà. E la realtà della nostra pubblica amministrazione è la seguente: le persone che hanno un contratto a termine nei confronti della pubblica amministrazione nel nostro paese sono oltre 120.000. Nel 2007, quando dato di riferimento precedente, erano 110.000, quindi nell'arco di 5 anni sono cresciute di 10.000 unità. Circa l'80% di questo personale ha contratti con le regioni e il sistema degli enti locali, quindi non riguarda sostanzialmente i ministeri. Ora è chiaro che bisogna mettere ordine, perché il fenomeno del precariato è frutto delle politiche che nell'ultimo decennio sono state fatte nel settore pubblico di contrazione del numero dei dipendenti e di blocco. E quindi il punto mi è chiaro, lei dice, insomma, premiamo il merito e però no, abbiamo il merito, perché intanto sono comunque concorsi, però guardi, io ho una domanda specifica da farle, se permette. Sì. E riguarda la scadenza di qui a fine anno del 60% degli 84.000 contratti a termine, insomma sono circa 50.000 contratti a termine della pubblica amministrazione. Questi concorsi, per istruirli avrete bisogno di tempo, naturalmente. Nel frattempo questa gente resta senza lavoro. Avete intenzione di varare una proroga di qui a fine anno? Intanto la norma riguarda solo quelle persone che hanno un contratto a termine con la pubblica amministrazione da almeno 3 anni nell'ultimo quinquennio, per i quali è prevista una procedura selettiva e quindi un nuovo concorso, e quindi non tutta la platea di coloro i quali hanno rapporti flessibili, diciamo, nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Perché? Perché è chiaro che si presuppone che queste persone che hanno già fatto un concorso per avere un contratto a termine siano qualificate e possono essere utilizzate, non tutte ma solo una parte, quelle che secondo i giudizi delle commissioni esaminatrici sono ritenuti migliori. Ma insieme a questo noi facciamo un'altra cosa che riguarda il merito, cioè noi obblighiamo tutte le amministrazioni a nominare vincitori di concorso nominare coloro i quali sono stati giudicati idonei in concorsi pubblici regolarmente espletati, perché in questo paese ci sono 70.000 ragazzi che sono o vincitori o idonei di concorso, che sono gli unici che si sono sottoposti ad una procedura selettiva e trasparente, ma che non hanno mai visto la porta della pubblica amministrazione per la quale erano stati selezionati, per scelte a volte dovute al taglio degli organici, sì, ma a volte dovute anche a scelte politiche discrezionali molto discutibili. Siamo... Quindi questo decreto fa giustizia e dà una risposta a quei ragazzi che si sono sottoposti ad una valutazione di merito, non mi sembra poco. Siamo in chiusura, Ministro, risposta secca, quindi non immagina proroghe per i contratti in scadenza di qui a fine anno? Ma guardi, quelli che sono interessati alle procedure del decreto saranno prorogati. dalle amministrazioni si attueranno le norme del decreto. Quelli che invece non sono interessati, i contratti scadranno secondo il rapporto contrattuale singolo, quindi non ci possono essere ulteriori proroghe ex legge. Ha una dimensione di quanti possono essere interessati dalla proroga? Guardi, questo dipenderà dai concorsi che bandiranno le amministrazioni. Uno dei problemi che noi abbiamo riscontrato è non avere proprio questi dati, tant'è vero che col decreto abbiamo un censimento che ovviamente contiamo di chiudere nel giro di un mese, proprio per avere il quadro esatto di tutte le tipologie di rapporto flessibile che esistono nelle nostre pubbliche amministrazioni, che come lei sa sono tante e forse anche troppe. Grazie, grazie al Ministro per la Funzione Pubblica Antonio D'Alia per essere stato con noi, dobbiamo andare rapidissimi, una pausa, ci ritroviamo tra un attimo e parliamo di Datagate. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E apriamo con una dichiarazione appena battuta dalle agenzie. L'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Messina, che dice: il partner industriale di Alitalia deve essere Air France. La giunta per le elezioni del Senato è riunita, si decide sul voto palese o segreto per la decadenza di Silvio Berlusconi da senatore. Lanzillotta dice: sono per il voto palese. Il governatore di Banca Italia Visco parla di crescita modesta a fine anno e grado elevato di incertezza. Saccomanni: abbiamo le carte in regola per agganciare la ripresa. Tanto va bene l'asta dei titoli di Stato italiani. Scende il rendimento dei bot a 5-10 anni, sale la domanda, la borsa è positiva. Dalle analisi effettuate finora sui gadget russi dati ai leader del G20 non risultano particolari minacce, lo ha detto poco fa un portavoce della Commissione europea. Ed è proprio da qua che ripartiamo dal cosiddetto Datagate, ossia tutto quel sistema che, come sapete, era stato messo in piedi dall'NSA, la National Security Agency americana, per tenere sotto controllo i cittadini di altri paesi, per lo più, da quel che abbiamo appreso, paesi alleati. Saluto Alessandro Politi, esperto di intelligence, docente del Master di Intelligence Economica e Geopolitica di ASIOI. Benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, le chiedo innanzitutto una lettura sull'ultima vicenda, questa dei famosi gadget russi, che a quanto pare si sta sgonfiando. Devo dire che già le prime informazioni lasciavano un po' perplessi. Che cosa ci dice? Ma niente, era, come dire, un falso bersaglio mediatico. È un falso bersaglio mediatico. Era ovvio che nessuno avrebbe mai dato apertamente a dei leader delle chiavette che poi sarebbero state immediatamente passate a un controllo elettronico, quindi rischiando di perdere la reputazione in due minuti. Quindi quello che dice la comunità europea conferma il fatto che sia un tentativo di confondere le acque. Senta, con lei vorremmo soffermarci sull'aspetto contrario. Stiamo ragionando molto su quanto l'NSA ha spiato noi paesi europei, ma naturalmente anche le nostre intelligence sono in costante ascolto. Non so se con metodi così pervasivi, ma sicuramente sono in ascolto. Come ascoltano e chi? Beh, questo innanzitutto è una decisione politica. Quindi c'è una serie di paesi che hanno dei profili preoccupanti dal punto di vista del terrorismo, del narcotraffico, della non proliferazione di armi di distruzione di massa, che ne so, la Siria, e quelli vengono tenuti sotto sorveglianza con una regolare decisione anche delle nostre autorità politiche, più o meno pubblicizzata, perché fanno parte, come dire, di un interesse nazionale condiviso anche con dei paesi alleati. Quando poi si tratta invece di spiare paesi amici, qui la cosa si fa un po' più complicata, perché o ci sono paesi che hanno una tradizione piuttosto forte in materia, e però quando vengono colti con le mani nel sacco pagano anche un pesante prezzo politico. Vorrei ancora ricordare per esempio gli israeliani, quando trafugarono una bozza di direttiva presidenziale sull'Iran, ed era ai tempi di Bush, quindi sicuramente, come dire, un grande amico di Israele. Beh, la reazione fu pesantissima e chi pagò il prezzo più pesante fu l'AIPAC, che dovette scusare. rifugiarsi e soprattutto garantire che aveva una fedeltà americana e non una doppia fedeltà. Grazie, grazie ad Alessandro Politi per essere stato con noi, esperto di intelligence. Noi adesso però vediamo di riassumere le notizie di questa giornata. Tutti vogliono chiarezza e risposte dal presidente americano, dalla National Security Agency e dai servizi di intelligence di ogni paese coinvolto. Anche l'Italia vuole chiarezza. Il presidente del Consiglio Enrico Letta ha convocato per domani mattina il Comitato per la Sicurezza. Gli americani contrattaccano, tutti spiano tutti, anche i nostri alleati europei spiano i leader e i servizi di intelligence americani. Lo ha detto il coordinatore dei servizi segreti statunitense Clapper durante un'audizione al Congresso. Non abbiamo raccolto noi le informazioni sui cittadini europei, ha detto il generale Alexander, capo della NSA, l'agenzia al centro dello scandalo, perché questi dati erano forniti dai nostri partner europei. I servizi italiani però negano, mai scambiato dati su cittadini italiani con i servizi americani. Berlino, da parte sua, smentisce di aver spiato gli Stati Uniti e fa sapere che spellerà i diplomatici coinvolti perché in Germania spiare è un reato. Riguardo poi alle intercettazioni dal cellulare della Merkel, una delegazione di alti funzionari di governo incontrò oggi a Washington la controparte americana. L'intenzione è quella di raggiungere un accordo affinché gli Stati Uniti si impegnino a non spiare il governo o le sedi diplomatiche tedesche. In Spagna il premier Mariano Rajoy ha annunciato che il direttore dell'intelligence iberica Roldán riferirà alla Commissione Segreti Ufficiali del Parlamento. La Cina infine si dice preoccupata per le notizie sull'attività di spionaggio da parte degli americani e ribadisce che rafforzerà le misure di sicurezza delle proprie comunicazioni. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come ogni giorno a quest'ora ci occupiamo della legge elettorale, delle persone che stanno facendo una staffetta del digiuno in solidarietà con Roberto Giachetti, deputato del Partito Democratico, che come sapete da circa 23 giorni sta facendo il digiuno appunto per la modifica della legge elettorale. Finora ha perso circa 7 kg. Domani tra l'altro sarà una giornata importante perché è il cosiddetto No Porcellum Day, giornata dedicata, e sarà una giornata speciale anche ad effetto giorno, quindi restate collegati che vi racconteremo bene. Chi abbiamo in linea oggi? Tobia Zevi. Mestiere? Attivista politico, in questo momento candidato alla segreteria del Partito Democratico di Roma. E perché questa giornata di digiuno? Noi viviamo un'epoca in cui i cittadini si sentono distanti dalla politica e dalle istituzioni. Una delle ragioni di questa distanza, di questa frustrazione, di questa delusione nei confronti della politica e delle istituzioni è una legge elettorale assurda che non consente ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti e che non obbliga i rappresentanti dei cittadini, cioè deputati e senatori, a farsi vedere per strada, tra la gente, e a confrontarsi con i problemi veri, quotidiani delle persone. Grazie Zevi, buona giornata e buon Porcellum Day per domani. Noi abbiamo una pausa per la viabilità e ci ritroviamo dopo, come sempre, con America 24. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Datagate, una notizia appena battuta dalle agenzie. Secondo quello che scrive il numero di Panorama oggi, il numero di Panorama in edicola, la National Security Agency avrebbe intercettato anche il Papa tra le 46 milioni di telefonate tracciate dagli Stati Uniti in Italia tra il 10 dicembre 2012 e l'8 gennaio 2013. La giunta per le elezioni del Senato è riunita in questo momento, si decide sul voto palese o segreto per la decadenza di Silvio Berlusconi da senatore. Il governatore della Banca d'Italia, Visco, dice crescita modesta a fine anno e grado elevato di incertezza, Saccomanni, abbiamo le carte in regola per agganciare la ripresa. Appena diffusi i dati di Fiat per il trimestre, si segnala un utile netto che sale a 189 milioni di euro, ma vengono aggiornati a ribasso i target per il 2013. Adesso è il momento di Mario Platero con America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. Everybody is to leave here immediately. This cafe is closed until further notice. Clear the room at once. Casablanca, il grande classico, Humphrey Bogart, uno dei momenti chiave del film. L'ispettore Renard entra a Rick's Café e dice di chiudere tutti. Sono scioccato, dice, ci sono attività di bisca clandestina. Casablanca è entrato inaspettatamente, improvvisamente, a gamba tesa, nello scandalo del Datagate. Yes, it is, and I have to say, Chairman Rogers, that some of this reminds me a lot of the classic movie Casablanca. My God, there's gambling going on here. You know, it's the same kind of thing. James Clapp, direttore della National Intelligence, di fatto è il grande coordinatore, il capo anche della NSA, della National Security Agency. Beh, ieri c'è stata un'audizione importante davanti alla Commissione Intelligence della Camera, in cui Clapp, rispondendo alla domanda del presidente della Commissione, Mike Rogers, che gli chiedeva, queste attività di spionaggio sui capi di governo stranieri sono una cosa normale? E la risposta di Clapper è stata appunto, tutto questo mi ricorda il film Casablanca. Poi ha aggiunto Clapper, dal 1963 che mi hanno insegnato nelle prime classi che facevo di controspionaggio che bisogna monitorare i capi di governo stranieri perché dobbiamo confrontare se quello che dicono pubblicamente corrisponde a quello che pensano davvero. Non lo facciamo noi soltanto, dice Clapper, lo fanno tutti. Altra verità che insomma in qualche modo tutti possiamo sospettare, ma che nessuno ancora aveva pronunciato, non era stato detto dalla Casa Bianca, non è stato detto da nessun altro dei governi stranieri, lo scandalo riguarda soltanto la Casa Bianca. E ieri c'è stato il contrattacco non soltanto di James Clapper, ma anche di Keith Alexander, il responsabile della National Security Agency, l'agenzia governativa per la quale indirettamente attraverso la Booz Allen, una società di consulenza privata, lavorava Snowden, Edward Snowden, che aveva raccolto questi dati per poi divulgarli al pubblico. E allora cosa hanno detto i due ieri, Clapper e Alexander? Beh, intanto hanno detto che una gran parte dei dati che loro hanno ottenuto li hanno ottenuti grazie alla collaborazione dei paesi europei. Sono stati gli spagnoli, sono stati i francesi che si sono scandalizzati di questa attività di spionaggio degli Stati Uniti, che in realtà hanno fornito la documentazione, perché erano loro che la raccoglievano, agli americani. Gli americani poi la rielaboravano e insieme si scambiavano queste informazioni con l'obiettivo primario di controllare il terrorismo. Altro punto, è un attacco ai giornali europei, un attacco molto diretto anche all'Espresso. Sentiamo. Chairman, the assertions by reporters in France, Le Monde, Spain, El Mundo, in Italy, L'Espresso, that NSA collected tens of millions of phone calls are completely false. They cite as evidence screenshots of the results of a web tool used for data management purposes, but both they and the person who stole the classified data did not understand what they were looking at. Le accuse della stampa francese, Le Monde, spagnola, Il Mondo, italiana, L'Espresso, ossia che la National Security Agency ha raccolto decine di milioni di telefonate, sono completamente false. Non hanno capito come funziona il metadata, cioè l'insieme di questi milioni, decine di milioni di dati. Non hanno capito che le schermate che hanno avuto come prova da Snowden non significano assolutamente nulla, perché noi in realtà su quelle schermate non preleviamo nessun dato. Allora, cosa ha spiegato Alexander? Che l'insieme di questi dati, cioè di queste telefonate, serve per essere messo in confronto diretto, di modo che se fra questi 10 milioni, 20 milioni, 30 milioni di telefonate a un certo punto salta fuori che ce ne sono due in cui c'è un collegamento con un terrorista sospetto che parla con un numero in un certo paese, allora lì si interviene e si va a fare l'ascolto autorizzato dal punto di vista americano dal Patriot Act. E poi si condividono le informazioni con i paesi alleati. Un contrattacco, dunque. La polemica sul caso Datagate continuerà ad infuriare. Le audizioni servivano anche per cercare di capire come poter riformare le operazioni di sicurezza senza andare a violare la privacy dei cittadini. Anche l'America è molto preoccupata da questo. I repubblicani in genere erano schierati con i due generali. Clapper è un ex generale, mentre Alexander lo è ancora. Diceva: vogliamo che voi portiate il messaggio ai vostri uomini che ammiriamo il lavoro che fanno per proteggerci. È uno scandalo che altri si siano scandalizzati e abbiano insinuato che i vostri uomini non fossero dei patrioti. I democratici erano più prudenti, non mettiamo in dubbio che siano dei patrioti, ma riteniamo di dover cambiare certe metodologie di ispezione, di raccolta di informazione. L'amministrazione sembra che abbia già un piano quasi pronto, ma lo rivelerà soltanto a dicembre. Si dice che Obama voglia imporre la rinuncia a raccolta di materiale che riguarda capi di Stato di governo stranieri, cosa che naturalmente farebbe inorridire uno come Clapper, che l'aveva imparato fin dal 1963 come metodo chiave per lo spionaggio internazionale. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, scriveteci su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di Casablanca, abbiamo parlato di intrighi, abbiamo parlato di Rick's Café. E dunque, visto che Casablanca è entrato inaspettatamente a gamba tesa nello scandalo Datagate, vi propongo un classico immortale, Dooley Wilson, As Time Goes By. You must remember this, a kiss is still a kiss. Anche oggi, Mario, ma non per colpa di un ritardo, non riusciamo a far ascoltare la canzone. Non per colpa di un ritardo, ma perché stanno arrivando notizie importanti dal Senato e naturalmente le dobbiamo dare. E riguardano le decisioni della Giunta per le elezioni in merito al caso, al voto sul caso e sulla decadenza di Silvio Berlusconi. Ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, Simone, la Giunta ha deciso dunque per il voto palese, a meno di sorprese da qui a quando si andrà a Palazzo Madama. Il Senato si esprimerà con un voto palese sulla decadenza di Silvio Berlusconi. Alla fine vi è stata una prevalenza, 7 voti per il voto palese e 6 contrari. Ricordo brevemente gli schieramenti: per il voto segreto PDL, Lega, Galle, Socialisti; per il voto palese PD, 5 Stelle e SEL; Ago della Bilancia, Scelta Civica, Linda Lanzillotta, che però già un'ora fa nel nostro precedente collegamento, Simone, avevamo detto si era già espressa per il voto palese, quindi si voterà con il voto palese a Palazzo Madama. Ricordaci i tempi brevemente, Vincenzo. Sì, i tempi sono da qui ad oggi, non prima di 20 giorni per procedure regolamentari che non permettono che vi sia un voto prima di 2 settimane/3 settimane. Grazie dunque Vincenzo Miglietta, e quindi dovremo andare più o meno al 19 di novembre, 20 di novembre più o meno. Noi chiudiamo qua questa puntata di Effetto Giorno, ci risentiamo tra un attimo con il giornale radio, poi ci risentiamo anche oggi con Focus Economia, sostituirò Sebastiano Barisoni. Un ringraziamento a Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggin in redazione, come sempre a tutta la redazione di Radio 24, vi ricordo i contatti, mi trovate su Twitter, Simone Spezia, oppure c'è la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. È tutto, buona giornata.